È il colmo del pessimismo. Però, diciamo, pessimismo non riuscire mai a arrivare davanti a Lorenzo. Poi non dir coach perché sembra un pipa di culo, però lo so che devo abituarmi, ma quando mi chiamano coach i ragazzi non mi giro. Quanto è Ecclestone, bisogna avere rispetto per le persone molto anziane, soprattutto quando per l'età non riescono più a controllare le parole. Tutti convocati di Carlo Genta. Quella partita di andata che abbiamo giocato al Bernabeu, dove i tifosi avevano sconquassato una delle due porte e abbiamo aspettato due ore per cominciare la partita. Te necesitamo come sempre, come nunca. Corazón será nuestro corazón. Dopo 45 minuti avremmo potuto dire, signori, grazie, ce ne andiamo. Contigo lo imposible no existe. Nunca nos has fallado, nunca nos fallarás. Quella partita ha sicuramente quel ricordo strano di quelle due ore di ritardo che potevano consentirci di arrivare in finale, però abbiamo giocato un grande fair play e forse questo resterà comunque nella storia del Borussia Dortmund. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Vabbè, tanto questa sera passa il Borussia Dortmund, però tutta la retorica della remontada ve la lasciamo e ne parliamo insieme a 800240024, Laura Vanossi in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Abbiamo sentito il ricordo di Nevio Scala con Dario Ricci di quella semifinale che lui giocò al Bernabeu, in cui tirarono giù anche le reti delle porte. Abbiamo sentito Mourinho caricare pubblicamente la squadra. Io il primo quarto d'ora me lo guardo con grande passione, ma secondo me il Borussia Dortmund va in finale. È un piacere parlare con Daniele Adani, come oggi commentatore di Sky, ieri difensore di Brescia, Inter e molte altre squadre. Ciao Lele. Ciao, buongiorno, bentrovati. Senti, questa sera io non vedo grandi possibilità di remontada, al di là di tutto. Anzi, poi posso dirti una cosa. Dimmi. Con le scelte di Mourinho, che questa volta ha scelto la strategia di mettersi contro tutti, tutto l'ambiente madridista, dal pubblico alla dirigenza ai giocatori, potrebbe rischiare di finire anche male per il Real. Questa è un'ipotesi, un'ipotesi probabile, perché di là c'è una squadra che va a 2000, che non si lascia impressionare, che ha la spavalderia, la velocità, la voglia di stupire che continua a prevalere, perché erano quasi fuori col Malaga, hanno ribaltato dopo il 90esimo, quindi questa volta credo che anche Mourinho dovrà piegarsi, però di certo le proveranno proprio tutte, subito con una impronta, io credo, importante sulla partita, ma sono tanti tre gol. E poi potrebbero anche essere di più, perché come hai detto tu, non è da escludere che il Borussia vada a fargli male anche in casa loro. Sì, remontate del Real, Derby County nel 75-76, 4-1 all'andata, 5-1 al ritorno, 84-85 Anderlecht 3 Real 0, ritorno 6-1, 85-86 Borussia Mönchengladbach 5 Real 1 all'andata, ritorno 4-0 per il Real. Sono numeri che possono confortare Mourinho. Però questo Borussia Dortmund mi sembra un'altra cosa, anche se ti dico la verità, una finale tutta tedesca io avrei anche evitato di vederla. Però credo che dobbiamo abituarci, nel senso che stiamo vedendo Bayern e Borussia dominare sotto tanti profili, al di là appunto della forza del paese, e che poi si riversa anche nel campo, perché acquisti giusti, chi in un modo, chi nell'altro, chi spendendo subito e chi coltivandoli in casa, però ci stanno insegnando probabilmente nell'ultimo periodo come va fatto il calcio. Sì. E poi lo vediamo anche in Champions League, perché veramente guardare il Borussia e il Bayern ci si diverte, cioè quello sicuro. Che era sicuro. Quando vedevamo Barcellona e Real, probabilmente sicuro. Lele, adesso voglio che mi parli un po' di Milan, che hai commentato domenica con Sky. Hai visto il Milan difendere con i muscoli e con i nervi, perché di gambe non mi sembra ne abbiano più tante il terzo posto, Eppure il destino di Allegri sembra segnato, perché comanda non il gruppo, come ha detto Balotelli, che sta con Massimiliano Allegri, ma comanda un proprietario che Allegri non lo vuole più. Ma il calcio veramente ha degli, cioè nel senso, ha delle logiche strane, proprio si vive in alcuni momenti e ci lascia, credo, continuamente a bocca aperta, perché per esempio guarda nell'Inter come Stramaccioni continua a essere super confermato, non avendo, con tutte le sfortune chiaramente del caso, non avendo fatto risultati, e il Milan che comunque se la sta lottando, il lavoro di Allegri secondo me è un grandissimo lavoro e continuo, no? E anche in condizioni differenti, perché 2 anni fa quando ha vinto lo scudetto non aveva la squadra di certo che aveva quest'anno, eppure continua a arrivare lì a giocarsela, a ottenere comunque certo. Tutto da un gruppo che ha avuto certo. Problemi, eppure probabilmente quasi segnato il destino da Allegri. Io lo trovo chiaramente una cosa ingiusta, di certo se Allegri dovesse andare via non va via da perdente. Ascolta, altro argomento, Seedorf e questo Milan. Seedorf non è un allenatore di calcio, può diventare un allenatore di calcio? Hai centrato nella premessa, secondo me, già la risposta. Non è un allenatore di calcio, ma può diventarlo. Quindi se pensiamo a Seedorf, fra qualche anno, dopo che ha, diciamo, archiviato e dimenticato l'esperienza da giocatore, che è un altro lavoro rispetto a quello da allenatore, quindi ha fatto la preparazione, si è preparato sul mestiere, ha scelto con che staff lavorare, si trova pronto dopo magari aver preso già un paio di palate che non sguastano, perché a volte prendere qualche palata nei denti ti aiuta a crescere, allora nel Milan lui è uno che basta che accende la spia, è da quei palcoscenici in tutto, però partire senza la conoscenza del mestiere in una squadra che non va solo gestita, perché io credo che non bisogna pensare che nelle grandi squadre serva la gestione dei campioni, ma serva la gestione, devi portare qualcosa a dei campioni che hanno avuto tanti allenatori importanti, hanno vinto con loro, e che non gli vai a raccontare, diciamo, la storia, le favole così. Non gli vai a raccontare le favole. Lele Adani, sei contento che abbiamo il governo? Sì, non mi dispiace. D'altra parte non se ne poteva fare a meno, certo. Cioè, siamo arrivati a un punto che ci doveva essere qualcuno che cercasse di dare ordine. Bravo, ci voleva qualcuno che cercasse di dare ordine come un bravo allenatore. Speriamo che Letta lo sia. Lele, ti chiedo un istante di pazienza, poi vorrei chiudere con te su 2 argomenti che mi stanno a cuore: Pazzini e Balotelli. A dopo. In corsa parte Lewandowski, in rete Lewandowski, 4-1. Tutti convocati. E io vi aspetto, cari amici convocati, 800 24 00 24, oggi come domani in diretta qui anche il 1° maggio, perché festeggiamo così la festa dei lavoratori. Lele Adani sempre collegato con noi. Allora, 2 argomenti: Balotelli e i calci. Tu sei stato difensore, hai marcato grandi attaccanti, hanno senso queste dichiarazioni di Balotelli? No, perché io ho un'età per cui ricordo bene Maradona, che prendeva 1 miliardo di calci a partita, si alzava, dava la mano e andava via, segno di forza. Sì, questo non è un segno di forza. Sicuramente, e deve crescere. Ieri parlavo con Carletto Muraro, è stato un attaccante, insomma, di qualche tempo fa, e allora veramente che non c'erano telecamere, c'erano regolamenti, diciamo, che concedevano di più ai difensori, quegli attaccanti di quella velocità, di quella classe, di quella bravura, prendevano di quelle legnate e non dicevano niente, non avevano alternativa. Dovevano prendere, alzarsi e giocare. Allora Balotelli è un giocatore talmente forte che è naturale che sia raddoppiato, triplicato e menato. Però la sua capacità deve essere quella di saper subire i calci e tramutarli in orgoglio per la forza che ha, perché Balotelli è un giocatore talmente forte che se sta concentrato sul calcio giocato può decidere la partita in ogni istante. Esatto. Quindi questo è un altro ulteriore passaggio che deve fare. Esatto, ma poi prende quel calcio e dici: io non ti guardo neanche in faccia, tu picchiami, io faccio il mio lavoro lo stesso, non mi fai paura. Tanto sono più forte di te, è quello. Bravo, è questo il discorso. Se ti lamenti e frigni, dai un senso, dai una immagine di debolezza anche a chi ti sta marcando, anche a chi ti sta picchiando, e quindi insisti, sai che lui perde i nervi e gli vai certo, dentro. Certo, lavora sulle tue fragilità, è vero, perché, è una cosa anche psicologica. Perché, ma certo, è così, tu che sei stato difensore lo sai benissimo. Sì, sì. Un'ultima cosa, Pazzini erede di Inzaghi, io lo vedo così. Sì, Nel senso, prima cosa che mi viene da dire, tanto di cappello per un professionista. Bravo. Che si fa trovare pronto, non dice niente, sa probabilmente che nel roster parte un attimino dietro a, diciamo, ai Balotelli e agli Sharawi in questo momento, a un Boateng che è molto duttile, in prospettiva anche Niang potrebbe essere impiegato di più, no? Però sì. È un giocatore che come risponde? Quando entra in tre minuti risolve la partita, e dopo diventano imprescindibili per l'allenatore, diventano quasi i giocatori più importanti, magari un minutaggio ridotto, però alla fine gli allenatori non si privano di quei giocatori lì, ma questo perché in silenzio lavori e quando sei chiamato in causa fai il tuo. Non si può fare a meno in una rosa che vuole vincere di un giocatore così. Sì, ci vuole anche l'attitudine, perché non è facile entrare a freddo. Certo, ma la chiave è proprio quella, cioè a volte saper soffrire tramutando, diciamo, la tua frustrazione anche per un minutaggio che va via via riducendosi in rabbia positiva, e alla fine poi parla il campo. E un giocatore come Pazzini, se il Milan arriverà in Champions League, si sarà dimostrato importantissimo, decisivo, perché rischiavi, certo, di perdere col Catania se non c'era lui. Ah, sicuro. Lele, ti saluto con un messaggio che è questo: quante soddisfazioni mi hai dato al Fantacalcio. Mi scrivo un passista da Milano. Bene, grazie. Sono contento. Grazie Lele. Salute, grazie. Un abbraccio. Ciao. Grazie a Lele Adani. 800240024 è il numero verde per parlare con noi. C'è Giovanni da Milano che ricorda giustamente anche l'atteggiamento che aveva Van Basten di fronte alle spazzolate che gli davano i difensori, e Van Basten, vi assicuro, ne ha prese tante, ne ha prese così tante da chiudere anzitempo una carriera meravigliosa, da giocatore più forte del mondo all'epoca insieme a Maradona, con una caviglia spaccata in due. Allora, a proposito di bandiere e di gente che sa stare in campo, anche oggi aspetto i vostri messaggi e le vostre telefonate su Saverio Zanetti, che è stato operato e che continua a dire: voglio tornare. Ovviamente, abbiamo al telefono già. E ahí está, preparato para más. Vai a luchar para regresar. Ringrazio a tutti i nostri tifosi, anche i miei colleghi, tutta la gente che mi è stata vicina in questo momento. Però vabbè, fa parte del nostro mestiere. Adesso, dopo l'operazione, già pensare alla riabilitazione per tornare a giocare. Dunque Mourinho che ha sentito al telefono Zanetti, e Zanetti che dice: voglio tornare. A 40 anni è dura, qualche volta bisognerebbe anche insomma saper capire come capì Van Basten con le cattive, quando è il momento di smettere di far calare il sipario. Io non credo, me lo auguro, adoro Zanetti come professionista più che altro, però io non credo che tornerà a fare il giocatore di calcio ad alto livello. Io immagino un bel saluto di tutta l'Italia, non solo calcistica ma sportiva, per un giocatore molto trasversale, per un giocatore che ha saputo non solo mettere la maglietta dell'Inter, essere il simbolo dell'Inter, ma essere un simbolo di professionalità, tanto che i messaggi, quando succedono queste cose, arrivano da ogni dove e da ogni bandiera. Allora, voglio parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde. Nicola Taranto, buongiorno. Buongiorno. Sa quando si gioca la finale di Coppa Italia, così diamo una notizia dell'ultima ora? No, dica lei. E lo dico io. Allora, domenica 26 maggio, cioè il giorno dopo la finale di Champions League, con inizio alle ore 18, cosa ne pensa? Penso che sia un orario intermedio. Soluzione potevano politica. Potevano fare meglio, insomma. Potevano fare meglio. 20:45 c'è buio, 26 maggio alle 18 c'è ancora luce, eccetera eccetera, e fa caldo, e poi dipende dalle teste ricamate che ci sono in giro, insomma, no? Dica. Signor Genta, io innanzitutto sono contentissimo di essere riuscito ad essere convocato, perché sono un assiduo ascoltatore, però non riuscivo mai ad essere convocato. Nicola, io spero che torni, però qui insomma, i convocati per nostra fortuna sono tantissimi, quindi sa. E infatti me ne rendo conto. Niente, io innanzitutto devo fare un grosso in bocca al lupo. Premessa, sono un tifoso milanista. Sì. A Zanetti, perché è veramente un personaggio particolare del calcio italiano degli ultimi 20 anni. Un grande sportivo. Grande. Un grande da sportivo. Paragonare a Maldini, a Baresi, non so. A chi, un grande sportivo, ma anche andando fuori dal calcio. L'unico difetto fuori dal che è argentino. No, vabbè, questa non gliela passo perché. No, nel senso che. Non è nativo, però è riuscito ad essere ugualmente sì. Un personaggio, una bandiera. Uno di noi, perché lei conosce, non so se conosce la mia passione per l'Argentina, per la maglia albiceleste, eccetera, eccetera, per ragioni mie, familiari, eccetera, eccetera. Quindi non è per me non è un difetto l'essere argentino, anzi. Io adoro i giocatori, l'Argentina e i giocatori argentini, e spero che, insomma, che Messi prima o poi dimostri davvero di essere come Maradona, anche se mi tengo tutti i miei dubbi. Luca Cesena. Buongiorno Carlo. Ciao. Una domanda a proposito del derby di Roma, visto che prima sentivo che hanno deciso l'orario della partita. Che mi le 18, non le 20.45, non le 15, andiamo in mezzo e non sbagliamo. Faccio una domanda che avrei voluto fare subito dopo gli incidenti che sono stati per il derby, ma sono cose che mi fanno talmente arrabbiare, quindi ho aspettato che passasse un po' di tempo. Io frequento lo stadio e tutte le volte sento una mezz'oretta di è vietato fare questo, è vietato fare l'altro, un centinaio di divieti. Ma a Roma, per chiudergli la curva o per squalificargli il campo, che cosa devono fare? Punto di domanda. Nel senso, devono dar fuoco al Colosseo, devono buttare giù San Pietro? Perché a me sembra sinceramente una cosa come se fosse un territorio extra, nel senso. Purtroppo, tutto permesso, tutto consentito? Non è tutto permesso, tutto consentito. Io dico soltanto che le leggi dello Stato italiano vivono in uno stadio come vivono fuori da uno stadio, che i comportamenti di chi segue il calcio sono uguali ai miei e ai suoi, quindi se io esco e tiro una sassata a un poliziotto mi mettono le manette e vado in prigione. Quello che a me dà fastidio è la extraterritorialità del mondo dello sport, come se alcuni comportamenti fossero giustificati perché vige un altro tipo di legge, ma questo non vale soltanto per Roma. Io penso soltanto che si tratterebbe di applicare leggi dello Stato che già ci sono. Se lei va per strada e insulta un poliziotto, arriva alla volante e la porta in prigione, no? Mentre quando arriva al branco e quando succedono queste cose, allora si tratta di arginare e di limitare i danni. E questo purtroppo è una degenerazione quasi giuridica, io direi, perché non esiste extraterritorialità. Gli stadi italiani fanno parte del territorio italiano, la zona intorno agli stadi fa parte del territorio italiano. Io non capisco perché non debbano essere applicate in quei casi le leggi dello Stato italiano. 800 24 00 24, numero verde Alfredo, Roma, buongiorno. Sì, salve Roma. Salve. Salve, salve, salve Alfredo, buongiorno. Allora, intanto volevo dire a quel signore che l'altro giorno hanno arrestato 8 torinesi sì. Al derby di. No, ecco, per fare no, il ma, perché ma non ne facciamo Alfredo. Patania, ma non ne facciamo una questione di campanile. No, mi pare che quel signore l'ha fatta comunque, voglio dire. Ma sa, però questo. Alfredo, sa anche lei che intorno al derby di Roma i problemi sono recidivi e costanti, e no? Quelli che ci sono stati l'altro giorno al derby di cose che facciamo, non ne parliamo al derby. No. No, ma parliamone, però no, non vale il mal comune e il mal costume comune mezzo gabbio. No, io non dico mal comune, dico solo che si parla di un problema, quindi non si deve fare campanilismo o chi sì. È più bravo o chi è più bello, tutto là, il discorso è semplicemente questo. Ma lei come la pensa? Il signore che ha parlato prima è maleducato, questo. Ma lei come la pensa? Io la penso che comunque le curve, gli stadi... hanno chiusi quando ci sono atti di violenza, punto, a prescindere dal territorio. Quindi come succede a Torino, come succede a Milano è successo, come è successo a me personalmente a Bologna che mi hanno aggredito. Quindi ecco, quando ci sono problemi vanno chiusi, punto. Non è che è un problema di Roma e il signore di prima che cosa bisogna fare, devono dar fuoco al Colosseo, venisse lui a sistemare la situazione, no, magari è più bravo, non lo so. Insomma, voglio dire, no, ma non si tratta di questo. Io ancora devo capire perché le leggi dello Stato italiano non vengono applicate dentro agli stadi e nelle immediate vicinanze degli stadi. Perché le ripeto, se aggredisco un poliziotto, io scendo per strada e aggredisco un poliziotto, vengo messo in galera. Mentre se lo faccio in un contesto sportivo, in un contesto nel contesto di un derby, vabbè, allora carica della polizia, manganellate, eccetera, eccetera. Questo evidentemente è un problema che va affrontato a monte, allora probabilmente. Quindi non o a valle, non so. Sì, a valle nel senso va affrontato a monte con far rispettare le leggi, perché il problema è questo, se le leggi ci sono basta rispettarle. Comunque adesso, diciamo, io ho chiamato per un'altra cosa, dica, parlavamo della supremazia delle squadre tedesche. Anche questo riferito a quel signore prima, la Lazio ne ha eliminate due di squadre tedesche. Questo è vero. Ecco, quindi magari diciamo anche questo, visto che voglio dire sia. Ma le ha eliminate, eliminate non di poco, cioè le ha eliminate prendendo le ammazzate. Ecco, quindi voglio dire, si parla tanto del calcio tedesco, con tutto il rispetto, perché ci mancherebbe, quando hai due squadre che arrivano a Frampe, ci siamo arrivati anche noi. Bravo, su questo ha ragione. Anche io, noi, quando ci sono arrivate le due milanesi al finale, per me era Italia, quindi ecco, bravo. Sempre riferito al signore di no, ma senza riferirsi a nessuno, su questo ha ragione, ma anche il calcio tedesco, insomma, non va santificato. Nel calcio tedesco c'è una superpotenza anche economica che è il Bayern di Monaco, e c'è una meravigliosa opera di artigianato che è il Borussia di Dortmund, che funziona in una maniera meravigliosa. Però non è che anche il campionato tedesco sia il paradiso del calcio, e lei ha fatto bene a ricordare questo. Tutti convocati. Non so cosa dirvi davvero. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra, o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. A mancare oggi, mentre il Real Madrid tenta la remontada, mentre domani la proverà il Barcellona, sono tutte imprese impossibili. Non poteva mancare un estratto di uno dei miei film preferiti, Al Pacino in Any Given Sunday, ogni maledetta domenica. Mi immagino Mourinho e Villanueva domani che proveranno a dire queste parole ai loro giocatori, senza star a far vedere loro il gladiatore come qualche volta è successo, no? 800 24 00 24, il numero verde. Ma c'è qualcuno, una delle due spagnole, ha una minima possibilità di farcela secondo voi? Secondo me no. Allora, dallo Tito, per quanto riguarda il derby di Roma, spremuta di demagogia. Si è lavorato per l'interesse supremo dello sport. Ricordo, si gioca il 26 maggio alle 18 e non alle 20:45 e nemmeno alle 15. Faccio un appello ai miei tifosi, chiedo loro di avere un comportamento all'insegna della correttezza, delle regole e della legalità. Parolone, questo è di Rotito. Bisogna essere avversari sul campo, ma amici nella vita. Alla fine dobbiamo abbracciarci, come insegna lo sport. Ciao. Allora, 800 24 00 24, Giorgio Bologna, Alessandro Parma e Pasquale Mantova. Giorgio. Ciao Carlo, ciao. Scusa, ritorno un attimo sul discorso di Balotelli che facevi prima. Torna dove vuoi, schema libero, qui vale ogni telefonata di sport. Il blocco che ha preso sabato sera Nate Robinson durante Chicago e Brooklyn, sì. L'ho visto. È rimbalzato in terra, ha sbattuto la faccia, questo si è alzato, si è pulito leggermente la faccia, ha ricominciato a giocare. Ne ha fatti 23 nel quarto, a un punto dal record assoluto di Michael Jordan nell'ultimo quarto. Esatto, questo mi sembra l'atteggiamento che ci vuole, appunto. Volevo solo fare piccola precisazione. Ringrazio io a te, è stata una partita meravigliosa. Nate Robinson è un giocatore in grado di fare e di distruggere qualunque cosa. Sono degli atleti pazzeschi, di certo non stanno a lamentarsi troppo per i grattoni che prendono ad ogni singola azione, perché lì quello è un gioco da... Non voglio fare il macista, però questo è quello è un gioco da superduri, soprattutto nei playoff. Si gioca ad un'intensità fisica ai limiti dell'umano, secondo me, nei playoff NBA. Alessandro Parma, buongiorno. Buongiorno gente, volevo chiederle un parere. Il fatto che io ho fatto l'arbitro per 10 anni a livello amatoriale, no? Sì. Quando un giocatore faceva il gesto e mi mandava a quel paese, sì, come vedo che succede spesso in Serie A, io andavo da lui, gentilmente dicevo: guarda, io a te non ti ho mai offeso, non vedo perché tu devi offendere me, sì, gli davo il cartellino rosso e andava fuori. Sì, sì. Noi l'abbiamo visto fare su Balotelli, e giustamente, dopo hanno sbagliato a togliere una giornata perché lui l'ha offeso un'altra persona che non gli ha fatto niente, non lo vediamo fare sugli altri. Per quale motivo gli altri hanno paura di sanzionare chi li manda a quel paese, secondo te? No, ma io non credo che sia una questione di paura. Poi lei, Alessandro, avendo fatto l'arbitro, io quando facevo giocatore mi insegnavano: all'arbitro parla con le mani dietro la schiena, perché c'è una cosa che a un arbitro dà fastidio è il vedersi sventolare le mani in faccia. Mi corregga se sbaglio. Il vecchio Lobello diceva: mandami a quel paese, ma ti devo chiedere. Ma con le mani dietro la schiena. Sì, esatto. No, ma in questo ha ragione, però non vedo in questo specifico atteggiamento una grande disparità di trattamento tra Balotelli e ma io non è che difendo Balotelli, No, io ma neanche dico, sì, io l'ho capito. Il Cavani ha ammonito che corre dietro l'arbitro per dirgli di andare a quel paese. Sì. Deve avere il trattamento che deve fuori. Capisco. Sì, in questo sono d'accordo, perché anche nei momenti in cui c'è molta adrenalina in campo, e anche questo è da mettere nel conto, contano più i gesti delle parole. Lei mi insegna e ha ragione su questo punto, Alessandro. Pasquale. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Torgenta. Volevo farle una domanda, un quesito. Stavamo parlando prima dei rinnovi dei contratti. Oddio, siamo al trivial? Quasi. Ah. No, volevo chiedere una sua considerazione riguardo alla richiesta di Conte, che ha presentato, se vogliamo usare un gioco di parole, il conto praticamente alla Juve, sì, con la sua richiesta di quasi 5 milioni di euro per stagione. Mm-hmm. Secondo lei, ma proprio fuori dai denti, gli vale, visto che in Champions comunque inevitabilmente non ha avuto la squadra che sperava e non ha avuto neanche il gioco che si pensava che potesse fare, non in Italia, anche in Champions, però gli vale questi soldi o è una richiesta che ha sparato e vediamo quello che viene? È difficile dare un valore, è molto difficile. C'è un allenatore che ha vinto 2 titoli consecutivi, che ha preso una squadra che non vinceva da molto tempo e l'ha portata ad essere competitivi in Italia. In Europa ha fatto, secondo me, esattamente quello che poteva e doveva con questa squadra. Credo che Conte abbia un mercato, credo che si sia costruito un valore di mercato. Poi dire se Conte possa valere 5 milioni o 10 o 15 per me è francamente impossibile. Certamente è un bravo allenatore, certamente è un allenatore che ha saputo ricostruire, e io ero molto scettico, io non nascondo il mio scetticismo della prima ora, quando dissi: secondo me per la ricostruzione della Juventus ci vuole un allenatore di maggiore esperienza, che conosce la strada per tornare grandi. Invece è arrivato Conte, che ha avuto il supporto dell'ambiente, che ha avuto il supporto della società, poi il resto ce l'ha messo lui, perché la Juventus, questa Juventus bicampione d'Italia, perché adesso fate gli scongiuri che volete, però è inutile stare lì, domenica alle 5 la Juventus festeggerà il suo secondo scudetto consecutivo. Ebbene, insomma, molto in questi due scudetti c'è molto di Conte. Di conseguenza, se il giocatore che segna 15 gol, 20 gol va a chiedere il ritocco dell'ingaggio, non vedo perché non possa farlo l'allenatore che si è costruito anche un valore di mercato. Siamo siamo al massimo livello del professionismo, e questo vale in tutto il mondo, vale in tutti gli sport del mondo, Stati Uniti compresi. Gabriele, Brescia. Sì, buongiorno, extra convocato, complimenti per la trasmissione. Grazie. Una considerazione veloce e una domanda. La considerazione veloce è che è un peccato che questo Bayern poi vada ad essere allenato da Guardiola, perché forse era l'occasione buona per vedere il valore reale di Guardiola. Ma se si trova una squadra di campioni collaudata come questa, attenzione però. Attenzione, perché insomma cadere dall'alto fa male. Sì. Allora, se anche gli consegna una squadra che ha fatto il vuoto in campionato, perché così è anche vero che, come sottolineava anche ascoltatore via SMS, c'è il vuoto anche sotto il Borussia Dortmund, a testimonianza del fatto che il campionato tedesco non è esattamente il paese del Bengodi, non è esattamente il paradiso del calcio. Però Guardiola si troverebbe in caso di doppia vittoria in una situazione già difficile, perché come fai a fare meglio? Sì, vero. Quindi può essere anche un banco di prova. Può essere anche un banco di prova per Guardiola, con Heynckes che si appollaia sul davanzale della finestra e gli dice: ragazzo, prova a fare meglio di me adesso, se ci riesci, fammi vedere qualcosa di diverso. Quindi secondo me vale il discorso contrario, cioè è Guardiola che in una situazione del genere, con uno squadrone, con un sacco di soldi, con degli acquisti già fatti, dovrà fare meglio di Jupp Heynckes. Già non la vedo benissimo, cioè dovrà essere bravo, come probabilmente è. Adesso, grazie Gabriele, torni con noi quando vuole. Adesso vi voglio far sentire, tornando a Capitan Zanetti, una cosa che ha detto Mircea Lucescu ieri al microfono di Dario Ricci. Poi domani vi farò sentire il resto di questa intervista al giramondo del calcio. Lucescu: un ragazzo che l'ho stimato sempre e lo rispetto per tutto quello che ha fatto, è un grandissimo professionista, il miglior giocatore professionista che ho mai incontrato. Per tutta la sua carriera, come si dà l'Oscar per la carriera, a lui dovranno darlo domani l'Oscar per la carriera, perché non è stato un grande giocatore, solo un grande giocatore, è stato un grande uomo, è stato uno che è sempre stato generoso, disponibile a tutti gli altri. Tutti convocati. Beh, un mestiere conveniente, eh? Lo stregone del sangue spagnolo Fuentes, che a conclusione del processo sull'Operación Puerto si è beccato l'enormità di un anno di carcere. Vi sembra una sentenza equa? Fuentes, quello che ha drogato mezzo mondo, che insegnava a chiunque, poi sono usciti i ciclisti, ma c'era in mezzo chiunque, e questa storia rimarrà sempre coperta di sabbia. Ebbene, lo stregone del sangue, un anno di carcere, poi vediamo con la condizionale cosa succede. Secondo me alla fine è un gioco conveniente, e lo dico da arrabbiato, da incazzato e da cattivo. Alessandro da Lucca. Buongiorno Carlo. Ciao, dimmi. Complimenti per la trasmissione. Io sto facendo una constatazione e volevo un tuo parere. Io chiamo da Lucca e sono un tifoso juventino. E tutte le radio toscane e TV locali, è da circa da domenica pomeriggio che si lamentano del famoso, diciamo ormai, rigore non concesso al Torino per Torino Juventus. Sì, c'era. Vabbè. C'era, sì, va bene. C'era. Più vabbè, oltre a questo si lamentano della partita di Milan-Catania che non doveva finire. Vabbè, sì. Però tutto questo, io parlo non dei tifosi, ma proprio delle televisioni locali e delle radio, è un istigare i tifosi contro un sistema che sì, praticamente fanno, sta andando. Ma Alessandro, fanno il loro gioco, poi basta essere abbastanza intelligenti da non abboccare, basta ragionare con la propria testa, insomma, non serve qualcuno che mi venga a dire era rigore, bastardi tutti, è tutto finto, tutto truccato. Basterebbe semplicemente prendere le cose con un certo senso della misura, secondo me, perché la radio e le televisioni sono fatte per chi le ascolta, non sono dei modi per, non devono essere un modo per entrare nella testa delle persone per condizionarne le opinioni. Luca Verona, veloci che ho un ospite, sì, importante. Sì, salve dottor Genta. Salve, sì, abbassi la radio, se no non sento, non posso parlare. Dica. Sì, scusi. Volevo solo un suo parere su stasera, perché come lei anch'io penso che questo sia l'anno del Real Madrid. E non mi immagino proprio un Mourinho che si arrende così ed esce dalla Coppa. Si è visto che con il Manchester è passato la squadra inferiore. Sembra proprio l'anno del Real Madrid. Luca, vincere 3-0 con questo è tanto, tanta roba. Poi ripeto, Mourinho ha scelto la strada del io contro tutti, tutti contro di me, giocatori, pubblico, società, Spagna intera, pueblo madrilista, tutti contro di me, mi siedo lì e vedo che questi giocano contro di me. Allora, questa sera io guarderò con grande passione il primo quarto d'ora per capire l'atteggiamento del Real Madrid e poi vedrò se è il caso di cambiare canale, al di là del risultato. Giovanni, provincia di Catanzaro. Buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo fare considerare il grande dirigente che è Galliani. Sì. Molto volte questo viene sottovalutato, l'ultimo con lo scambio di Pazzini, quando gli davano un po' di pazzo contro che aveva dato dei soldi per Cassano, sì, sì. E poi con tutte le turbulenze che c'ha da parte del nostro presidente, che non se ne può più. Facciamo lavorare Allegri in pace, perché secondo me è un grande allenatore. Ma se non lo vuole più Berlusconi, Giovanni, non lo vuole più, e quando il capo dice non te voglio più, te manda via, non c'è niente da fare. Quindi questi sono discorsi che valgono certo, perché sono corretti, sono sensati, però quando il capo dice questo qua io non lo voglio più vedere, non ha ancora trovato il pretesto per calciarlo via, se arriva terzo come probabilmente farà, non troverà il pretesto, però lo manderà via lo stesso. E perché? E perché comanda lui. Sbagliato programma. Roberto, ciao, direttore di Riders, ma tu hai notizie di Max Biaggi? Sparito, aspettavano una risposta, geniale la trovata di questa sigla, Carlo. Innanzitutto buongiorno a tutti. Ciao Roby. Ciao, l'inverno è lungo e bagnato, se ci fossero le rain per le moto non l'avremmo ancora tolto. E Max dell'anima. È dato per disperso. Perché, come avrete anche letto, magari qualche cosina in più ve la posso dire, lui ha fatto grandi parole con Battà, che gestisce la Ducati. Battà, ricordiamo che è un maestro, è stato colui che lo portò nella Superbike dopo che lui sputò tanto su quel campionato di Serie B, ma riuscì a portarlo di qui. È un maestro nel fare comunicazione, nel creare notizie vere o finte, e quindi gli ha parlato tanto e gli ha messo sul piatto della bilancia un contratto da collaudatore. Poteva scegliere dove e come correre. Loro Ducati avrebbero preferito Jerez, l'ultimo appuntamento della settimana, perché è una pista che conosce bene, conoscono bene loro, ha girato tanto, tanti chilometri, hanno tanti dati. Sul piatto della bilancia avete letto 200.000, e lui doveva dare una risposta, però si è dato in fuga. Ho sentito anche l'azienda non si espone, perché dice sono parole di Battà, in questo momento non ci sarebbe neanche una moto per lui. Questo dice l'azienda, ma insomma poi dopo la moto salta fuori. Ma certo, Roby, scusami, però mi sfugge un passaggio. Quale? Cioè dice smetto, faccio il telecronista, tre gare, ma... no, ricomincio, e allora? Ragioniamo. Lui ha smesso perché ha vinto, se non avesse vinto non avrebbe smesso, prima di tutto. Però cappello, tanto di cappello, perché smettere da vincitori non è mai facile. Benissimo. però poi vedi che non puoi star senza quella cosa lì, quell'adrenalina, quell'essere protagonista, anche perché spingere carrozzina sul lungomare di Monte Carlo è un'altra cosa, e andare al centro commerciale il sabato ed essere invece il re per, in un mondo. E quindi ha fatto questa scelta, però mi dicono per esempio che si sia già un po' spazientito, arriva in ritardo gli appuntamenti, ad Aragon il venerdì doveva girare uno spot, non si è presentato, gli sta un po' stretto sinceramente quello di fare il commentatore la spalla. Bene. Bisogna dire che comunque un valore aggiunto, perché le cose le vede, sì, no, questo va detto. L'avevamo già detto, ma sì. Adesso che a che gioco sta giocando? Io quello che non capisco è che twitta: l'uomo Max ha deciso, ha finito di correre, quindi basta. Però intanto c'ha già trattative aperte, quindi è la sua strategia. Max è sempre stato così, gioca un po' a rialzo forse, sì. Quindi lui ha sempre gestito così, dall'appuntamento col fotografo al grande contratto, è un po' la sua strategia. Lui ama essere la prima donna, ha sempre potuto farlo e tutti quanti hanno digerito e pazientato, poi adesso forse un po' meno. E pensiamo alla testa di Checa, è vero che la moto è molto acerba, molto giovane, loro dicono in Ducati il 60% il problema è la moto, la ciclistica, e 40% il motore, quindi tutti pensano al motore, invece no, la moto come dai gas non curva, allarga e il contrario, devono ancora risolvere. Certo, il collaudatore Max Biaggi è fuori discussione, sì. È il numero uno, sì. Però ragazzi, questo atteggiamento sinceramente farebbe spazientire chiunque, a mio avviso. Anche credo i suoi tifosi, i suoi ammiratori, o comunque io non sono né suo tifoso né suo particolare ammiratore, mi permetto di poterlo dire a questo microfono, però è un grande pilota, questo atteggiamento a me non piace e posso permettermi di dire anche questo. Va scisso, il Max pilota 10, il Max uomo lasciamo casella bianca, ognuno deve fare i suoi giudizi, nel senso i suoi voti, poi bisogna seguirlo un po' su Twitter, oggi sai che la rete è la vera verità, quindi uno cade in tentazione per protagonismo e quindi gli lascia dei segnali e si capisce cosa fa, dov'è, dove non è. Farebbe del bene allo spettacolo Superbike, però la vecchia gestione Flamini, che era una famiglia intorno a un tavolo, avrebbe fatto carte false per averlo. La Dorna sinceramente se ne sbatte un po', ha altri programmi, altri progetti per questa categoria che deve ridimensionarsi, questo è il problema. Pochi piloti, deve costare meno, ma certo. Col momento che stiamo vivendo io non vorrei che di due classi, MotoGP e Superbike, ne resisterà solo una, si resterà soltanto una come Highlander, esatto, fondendosi, questo sarebbe un peccato. Roby, senti questo, ha smesso per la Pedron, ora lei a casa non lo sopporta più e gli ha detto di tornare a correre, che è meglio, è un ascoltatore che invia un SMS. Tra l'altro poi ci sono state tante anche notizie di contorno su questa cosa familiare che l'anno scorso, però io non voglio assolutamente parlare di quello, dobbiamo parlare di sport, di uomini di sport e rivalutiamo in pista, mai fuori. Senti Roberto, io ti saluto, ti ringrazio, ti prego di non farmi più caragnare con come hai fatto con l'ultimo numero di Riders dedicato alla Barishini, cioè a quel servizio, insomma. A me sono venuti i lucciconi e lo sai che non è il momento. Lui era unico, quindi dopo 10 anni meritava. A me lo dici, sì, sono d'accordo. Una vera rockstar. Lui era una vera rockstar di quegli affari che noi amiamo più della nostra vita, le moto. Grazie Roby. A te Carlo, un saluto abbraccio. A tutti. Grazie a Roberto Ungaro, direttore di Riders. Grazie a Laura Vanossi per il lavoro in redazione, grazie a Roberto Scaltritti in regia. Oh ragazzi, domani 1 maggio alle 2 siamo qua in diretta per parlare con voi. Non fatemi il pacco, Ciao a tutti. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata. Penso devo andare a cercarla nei prati. Il più ricco di un re intorno a te. Sto togliendo i germogli a un gelso.